Sylwester z trójką. Sylwester z trójką. W moim miksie pojawią się nagrania m.in. Fine Young Cannibals w nowej wersji Francuza Dimitriego from Paris. Będzie Grace Jones, The Juan McLean, Krystyna Prońko, a także Blunted Funk Project. Mój set potrwa do godziny 6. Nazywam się Norbert Bożym, czyli Bert. About you, baby, one desire. Gonna wrap my arms around you, hold you close to me. Oh, baby, wanna taste your lips, I wanna be a fantasy, yeah. You're not just another lover, no, you're everything to me. Every time I'm with you, baby, I can't believe it's true. When you lay in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you, need you, yeah. campo mio, proprio in mezzo al cielo, era buco balto liscio, liscio senza un pelo, la città sotto era un presepe, le luci del tramonto, la scia di un aereo, facevano più bello un mondo, lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, pane con solari, gli altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare. Quella voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao. Milioni di persone, le pace sotto il sole, il gelato in ombrellone, abbronza di un coglione, non hai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche quelli ci a riserva, in guerra con gli stessi, tra i video e i giornali, e noi sempre più lessi, a farci abbindolare, con la nostra indifferenza, a passione per le cose che non possiamo stare senza. Pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, nel gioco della vita, ma dobbiamo preparare, che non ci sfuggano le dita, come la sabbia arriva al mare. Roll the hips forward and roll the hips through and roll it, roll it, roll it. Baby. the world, I'll be there loving you forever. Don't let me go, just say it so. We'll hear the music ring from the mountaintops to the valley below us. We'll serenade the world with a lullaby so the angels will know us. Angels will know us. Are you ready? Are you ready for love? Thank you. wziął mnie ojciec i tak do mnie żył.